da che cosa bisogna guardarsi per vivere insieme in maniera onesta e piacevole, contro le burle e la tracotanza. Lungi da noi le burle che sono la scaturigine della tracotanza. Da queste cose, infatti, prendono poi corpo le contese, le guerre, gli odi. Abbiamo già detto che la tracotanza è serva dell'ebbrezza. Ora, non solo dalle opere, ma anche dalle parole l'uomo viene giudicato. Perciò, in un convito, dice, non rivolgere accuse al tuo vicino e non rivolgergli parole d'insulto. Se infatti ci viene specialmente raccomandato di stare insieme alle persone sante, certamente è peccato burlarsi di un santo. Dalla bocca degli stolti, dice la scrittura, esce un bastone di tracotanza. Chiama bastone di tracotanza quella scala a cui la tracotanza si appoggia e su cui si riposa. Perciò ammiro l'Apostolo che ci esorta a non pronunziare parole triviali o sconvenienti. Se infatti i banchetti in cui ci si riunisce sono fatti a motivo della carità e lo scopo del convito è l'amorevolezza tra i presenti e il cibo e la bevanda non sono che accompagnatori della carità, allora come ci si può non comportare secondo il Logos? E neppure bisogna che la carità scarseggi. Se è per consolidare la benevolenza tra noi che ci riuniamo, come possiamo allora attizzare le ostilità tramite le burle? È meglio fare silenzio piuttosto che controbattere a una falsità, aggiungendo così peccato a peccato. Beato davvero l'uomo che non è caduto in fallo con la sua bocca e non è afflitto dal rimorso del peccato, sia che si penta per il peccato che ha commesso con le sue parole, sia che abbia parlato senza rattristare nessuno. Norme di modestia per i giovani e per le donne. I ragazzi e le fanciulle si tengano assolutamente lontani da questi banchetti, affinché non scivolino in atti sconvenienti. Infatti, l'ascoltare discorsi a loro inabituali e vedere cose inopportune incenderebbe la loro mente, essendo in essi ancora vacillante la fede, e l'instabilità della loro età concorrerebbe a spingerli verso il pendio della concupiscenza. Talora essi diventano anche causa di caduta per gli altri, mostrando la loro pericolosa bellezza. Bene ci esorta la sapienza. Di norma non sederti insieme a una donna maritata e non accomodarti sul triclinio accanto a lei, ossia non stare a cena a stretto contatto con lei e non mangiare con lei. Perciò aggiunge, non organizzare incontri per bere vino con lei, affinché il tuo cuore non si inclini verso di lei e tu non cada nella rovina a causa della tua passione. Pericolosa, infatti, è la libertà che si accompagna al bere vino. Essa è capace di far perdere la testa. Ha nominato qui la donna sposata. Infatti, il pericolo è maggiore per chi è tentato di rompere un legame di vita coniugale. Se però per qualche necessità si è costretti a recarsi là dove vi sono donne, le sposate siano totalmente coperte all'esterno dal vestito e all'interno dal pudore. Quanto alle non maritate, è la peggiore infamia per loro partecipare a un convito di uomini per di più avvinazzati. Regole di educazione durante i conviti. I ragazzi poi tengano gli occhi sul loro triclinio, non abbiano un contegno agitato e movimentato, stiano pacatamente appoggiati sui gomiti e siano presenti agli altri solo con le orecchie. Se dovessero poi sedersi, non tengano i piedi incrociati e non sovrappongano le gambe una sull'altra, né mettano la mano a sostegno del mento. È maleducazione, infatti, non sapersi reggere dritti, e ciò è da biasimare nei giovani. È pure segno di frivolezza il continuare a muoversi e a cambiare posizione. È invece segno di temperanza prendere dal cibo e dalle bevande solo una minima quantità, nonché l'essere pacati e non precipitarsi, tanto all'inizio del pasto quanto negli intervalli, il cessare prima degli altri e il rimanere padroni di sé. Mangia da uomo, dice la scrittura, ciò che ti è posto dinanzi. Per educazione sii il primo a smettere e, se ti sei seduto in mezzo a più convitati, non stendere per primo la mano. Non bisogna dunque lanciarsi sui cibi prima degli altri, spinti dalla voracità, né tendersi continuamente in avanti a guardare per avidità, tradendo così con il soffermarsi a lungo sulle pietanze la propria intemperanza. Non ci si deve neppure mostrare, durante il pasto, intenti sul piatto come le belve sulla preda. Né bisogna servirsi di molta carne. L'uomo, infatti, non è un mangiatore di carne, ma un mangiatore di pane. L'uomo temperante si alza prima degli altri e con modestia abbandona il convito senza farsi troppo notare. Al momento di alzarsi, dice la scrittura, non essere la retroguardia, piuttosto torna veloce a casa tua. Come dissero i 12 apostoli, dopo aver convocato la moltitudine dei discepoli, non è bene che noi tralasciamo la parola per servire a tavola. Se facevano attenzione a ciò, a maggior ragione fuggivano la golosità. Gli stessi apostoli, scrivendo ai fratelli di Antiochia, Siria e Cilicia, affermarono: «Piacque allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso se non le cose necessarie, ossia astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Se vi guarderete da ciò, farete bene». Ora, l'eccesso del vino deve essere evitato come la cicuta, entrambi infatti trascinano alla morte. Bisogna anche contenere le risate sregolate e il pianto oltre misura. Spesso infatti gli ubriachi ridono sguaiatamente a lungo, ma poi, non so perché, a causa di qualche effetto del vino, precipitano nel pianto. In verità non è in sintonia con il Logos né la mollezza effeminata né la spavalderia tracotante. Quando è lecito scherzare? Gli anziani, guardando ai giovani come a figli, potrebbero talvolta, ma raramente, scherzare con loro, dicendo qualcosa di divertente con lo scopo pedagogico di migliorare il loro contegno. Ad esempio, a un giovine timido e taciturno si potrebbe dire con gentilezza: «Questo mio figlio», cioè quello appunto che sta in silenzio, «non smette mai di parlare». Una frase scherzosa di questo genere rinforza la modestia del giovane, mettendo in evidenza con grazia le buone qualità che egli ha, tramite il biasimo di quelle cattive che non ha. Si tratta di una finzione a scopo didascalico, che mette in luce quello che c'è tramite quello che non c'è. Similmente, a una persona temperante che beve acqua si potrebbe dire che eccede nel vino e si ubriaca. Se però ci sono alcuni che amano troppo scherzare, noi dobbiamo rimanere in silenzio e lasciare da parte le parole superflue, come pure le coppe ripiene. Scherzare così, infatti, è pericoloso. La bocca dell'impetuoso conduce alla rovina. Non accoglierai la vana diceria, non ti unirai all'ingiusto per essere testimone ingiusto, o per calunniare, o per infamare, o per compiere il male. Moderarsi nel parlare. Io credo che anche alla persona saggia, alla quale è concesso di parlare, debba essere posto un giusto limite nelle parole, per rispetto di colui che sta di fronte. Il silenzio è virtù delle donne, ma è un privilegio senza pericoli anche per i giovani. La parola, logos, invece, è un bene dell'età matura. Parla, o anziano, nel convito, ciò ti si addice, ma parla senza impacci e con esattezza di cognizione. E tu, o giovane, anche a te la sapienza lo permette. Parla, se ne hai necessità, ma condensa il tuo discorso in poche parole e solo dopo essere stato interrogato due volte. Entrambi coloro che parlano fra loro moderino il tono della voce, commisurandolo l'uno all'altro. Il parlare ad alta voce è da invasati, ma il tenere la voce così bassa da non farsi sentire è segno di insensibilità. Così infatti non ci si fa udire. Il primo atteggiamento dà prova di maleducazione, il secondo di sufficienza. Lungi da noi anche lo spirito di contestazione che cerca una vana vittoria delle parole. Il nostro scopo infatti è l'equanimità, e questo è il senso dell'espressione «pace a te», non rispondere parola alcuna prima di aver ascoltato. Una voce languida poi è segno di effeminatezza. La persona saggia ha invece la voce misurata e si trattiene dall'ampollosità, dalla prolissità, dall'eccessiva rapidità e abbondanza di parole, Non bisogna parlare né troppo né troppo a lungo, né dire cose futili, né parlare di corsa e precipitosamente. Anche la voce, per così dire, deve essere fatta partecipe della rettitudine e bisogna mettere un freno a quelli che gridano e schiamazzano. Per questo il saggio Ulisse colpì di percosse tersite, perché lui solo blaterava senza misura e conosceva nel cuore suo molte parole senza decoro, dette sconsideratamente senza ordine. Un uomo linguacciuto è il terrore della sua città. Nei ciarloni, come nelle scarpe vecchie, tutto è consumato dal vizio e solo la lingua rimane a fare danni. Perciò la sapienza ci esorta, con grande vantaggio per la nostra vita, a non chiacchierare in mezzo ad una moltitudine di anziani. E per tagliare alla radice la nostra loquacità, parte da Dio stesso e ci comanda di moderarci. Nella tua preghiera non ripetere le parole. Evitare gesti maleducati durante i pasti. I fischi, gli schiocchi con la lingua o con le dita per chiamare i camerieri, sono segnali irrazionali e devono essere evitati da uomini dotati di ragione e di parola. Bisogna anche astenersi dal continuo sputare, dal raschiarsi la gola con troppa forza e dal soffiarsi il naso quando si beve. Bisogna infatti aver riguardo per i convitati, affinché essi non siano nauseati da una tale maleducazione che è segno di intemperanza. Per noi non è come per i buoi e per gli asini, che hanno nello stesso luogo la mangiatoia e il posto per evacuare. Ma in vero molti fanno proprio così, si soffiano il naso e sputano mentre sono a cena. Se poi venisse da sternutire o anche da ruttare, non bisogna che chi ci sta accanto oda questo rumore con cui si dà prova della propria maleducazione. Ma quanto al rutto, deve essere fatto uscire silenziosamente insieme all'aria che si espira, mantenendo un contegno decoroso della bocca senza allargarla e spalancarla come fosse una maschera tragica. Dello sternuto invece bisogna eliminare il fracasso, mantenendo calma la respirazione, così da riassorbire con molto decoro il minaccioso impeto dell'aria, regolandone l'uscita e cercando così anche di far passare inosservata la mucosità che eventualmente dovesse venir fuori insieme al soffio violento dello sternuto. È segno di impertinenza e di sregolatezza il volere accentuare questi rumori al posto di eliminarli. Quelli poi che, grattandosi i denti per pulirli, si fanno sanguinare le gengive, sono molesti a se stessi e ripugnanti agli altri. E ancora, il grattarsi le orecchie e solleticarsi gli sternuti sono eccitamenti da suini e mostrano l'inclinazione verso un libertinismo debosciato. Bisogna evitare sia le indecenze che cadono sotto lo sguardo, sia le parole volgari che le designano. Lo sguardo sia dimesso e abbassato, i movimenti del capo siano composti, come pure l'uso delle mani mentre si parla. Il cristiano deve avere in tutte le cose un costume di tranquillità, di silenzio, di serenità e di pace. Se si debbano usare profumi e corone. Simbologia dell'unguento, la donna peccatrice è Giuda. L'uso di corone e di profumi non è necessario, fa deviare verso la lussuria e l'indolenza, soprattutto al calare della notte. So bene che alla cena santa la donna portò un vasetto di unguento con cui unse i piedi del Signore, ed egli se ne rallegrò. So anche che gli antichi re degli ebrei si cingevano il capo con corone d'oro e di pietre preziose. Ma quella donna non era ancora partecipe del Logos, essendo ancora peccatrice, e onorò il Signore con la cosa che riteneva per sé la più bella, ossia il profumo. Ugualmente fu con i suoi capelli, ornamento del suo corpo, che essa asciugò la sovrabbondanza di profumo e fondendo lacrime di pentimento di fronte al Signore. Per questo le furono rimessi i peccati. Tutto ciò può essere un simbolo dell'insegnamento del Signore e della sua passione. I piedi unti con l'olio profumato alludono all'insegnamento divino che cammina gloriosamente fino ai confini della terra. La loro voce, infatti, è giunta fino ai confini della terra. E se non sembro insistente nell'interpretare allegoricamente, potrei dire che i piedi del Signore unti con l'unguento sono gli apostoli che, come indicato profeticamente dal profumo dell'unzione, hanno ricevuto lo Spirito Santo. Gli apostoli, dunque, che hanno percorso il mondo intero comunicando il Vangelo, sono simbolizzati dai piedi del Signore, a proposito dei quali lo Spirito, anche nei Salmi, profetizza. Adoriamo il luogo dove i suoi piedi si sono posati, ossia dove sono arrivati i suoi piedi, gli apostoli, annunciato dai quali egli è giunto fino ai confini della terra. Le lacrime invece significano conversione e i capelli sciolti annunciano l'abbandono del gusto per le acconciature e la pazienza nelle tribolazioni subite a causa del Signore durante la predicazione, una volta che l'antica vanità si è sciolta per effetto della fede nuova. Ma l'episodio indica misticamente anche la passione del Signore, intendendolo così: l'olio, Elaion, è il Signore stesso dal quale proviene a noi la misericordia, Eleos. L'unguento invece, che è olio falsificato, è Giuda il traditore. Con quest'olio furono unti i piedi del Signore quando egli stava per abbandonare il soggiorno in questo mondo. I morti infatti vengono spalmati con unguento. Le lacrime poi: siamo noi peccatori convertiti, noi che abbiamo creduto in Lui e a cui Egli ha rimesso i peccati. I capelli sciolti, infine, rappresentano la Gerusalemme abbandonata, addolorata, sulla quale i profeti elevarono lamenti. Il Signore stesso ci insegnerà che Giuda è corrotto. Chi intingerà insieme a me nel piatto, costui mi tradirà. Vedi il commensale ingannatore? Questo medesimo Giuda tradì il Maestro con un bacio. Divenne ipocrita dando un bacio traditore, a imitazione di un altro antico ipocrita, e mostrando il peccato del popolo stesso. Questo popolo mi ama con le labbra, ma il loro cuore è molto lontano da me. Non è inverosimile che l'olio designi Giuda in quanto discepolo oggetto di misericordia, ma che l'olio alterato lo designi come traditore ingannevole. E questo è ciò che significavano profeticamente quei piedi unti di profumo, il tradimento di Giuda nei confronti del Signore che stava per incamminarsi verso la passione. Il Salvatore stesso, lavando i piedi dei discepoli e inviandoli a compiere le opere buone, alludeva al loro cammino verso i pagani per beneficarli, cammino nobile e puro che egli aveva già predisposto con la sua potenza. Da essi salì il profumo e si diffuse la fama delle loro opere odorose che hanno raggiunto tutti. Infatti la passione del Signore ha riempito noi di profumo, gli ebrei di peccato. Lo ha spiegato molto chiaramente l'Apostolo dicendo: «Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipi in ogni tempo del suo trionfo in Cristo e per mezzo nostro manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza, poiché noi siamo per Dio il profumo del Signore tra quelli che si salvano e tra quelli che vanno in rovina». Per questi odore che porta dalla morte alla morte, per quelli odore dalla vita alla vita. Simbologia della corona. Quanto ai re giudei, essi usavano una corona cesellata fatta d'oro e pietre preziose. Erano gli unti, Cristoi, e non si rendevano conto di portare simbolicamente sulla loro testa il Cristo, ornandosi il capo con il Signore. La pietra preziosa, la perla e lo smeraldo, simboleggiano il Logos, e così pure l'oro è lo stesso Logos incorruttibile che non subisce la ruggine della corruzione. Anche i magi, quando egli nacque, gli portarono dell'oro come segno del regno, e questa corona rimane immortale ad immagine del Signore e non appassisce come un fiore,